Desola del suono, nome proprio Express. Express. Burn the blood. Nel tempo attesa più dell'anno del drago. Pago l'incoscienza con fegato e nervo. Come Giwa, Stasi e Lucervu. È l'hip hop gamble, stile Jimmy con gli spliff. Fresco dannata come il gusto di un beef. Per ogni MC è l'immagine più vera, più chiara. Come quando con Last chiedo più Charas. Sono Chavez, Arisolandia, Venezuela. Armate traffico dove il beat impera. Le teste che raduno sono sane e incoscienti. Spaccone prepotenti, pensanti, pesanti. Desolandia va al mondo e ritorno. Dalla Bolivia alla Grecia alla Germania. L'Italia da nord a sud. Torino, Augusto, Taranto, Bologna, Ferrara e Desolandia, man. Desolandia Express. Qualsiasi riferimento a fatti o persone realmente accaduti. Puramente casuale. Puramente casuale. Insomma, non sono stato io. No, insomma, è puramente casuale. Casuale. Soprattutto l'ultima parte della canzone. Stati di alterata coscienza. Stati alternati di insana incoscienza. Quando è che metti da parte sta falsa innocenza? Raccontamene tu.